In strada. Lorenzo, thank you so much. Grazie mille. I was so scared. Ma adesso è tutto a posto. E guardi che bella giornata. Sì, fa caldo e ho fame. Anch'io. Possiamo mangiare qualcosa di veloce al bar. Che ne dice? Sì, all'aperto. Certo, all'aperto.